a casa. Oggi niente uscita, non ha giocato male. Sta così. Perché sta battuti, sicché. Stasera c'è la pizza, no? No, già fatta, mi stanotte le giri, da un po' di insalata. Ci faremo due asparagi. Che sono rimasta, non so come. E poi un po' di insalata, frutta, Giovanni, che sono qua. E poi ci vogliono più. Ti tiene leggero stanotte, là. Da fa bene, da fa bene. E io dovevo fare, beh. Mi raccapavo, pensavo che andassi a mangiarci la pizza, invece no. E vabbè. Allora oggi si mangia a casa, tranquilli. No, ieri l'abbiamo mangiata, l'ho presa con le patatine fritte. Invece Maria se l'ha presa con pomodorini freschi e basilico fresco. Ma su Banzigoppo non si è più inteso. Boh, è qua stamattina. Banzigo! Ma c'è il cubicchetti, oppure sembra un terrazzo. Sì, c'è il cubicchetti a panza. La panza di voi, fallo di buscia. L'abbiamo mandato un paio di volte con Biccati, ma tutte le mani, pure i volti pazzi. E tutto, magliette, mutande, veramente. La gente si mi cubicava la questione, aveva ancora più lucida. L'avevo gravato, zio Mario, ma poi si appena la culimani. La gruppi, vu. Da qua stamattina mi stava a mettere a posto il computer e che l'ho visto già, ripeto, c'è più da farà due, c'è più da farà, va, poi entra in frequenza ogni tanto, no, ma l'apparecchio che è non tratta, prima diceva che era minuto che non entrava lì. Ma già c'è l'ascolto, lui lo tiene acceso. Guarda, sono più che sicuro. Vabbè, io la cara, per giù bello. Su me mastica di pellet. Ma sago, c'è Luca che ogni tanto ne combina una, però. Salufati, lo fa di bicio, gatta, aiuto. La gente si aggraziava ancora su WhatsApp. Oh. Il fatto è giusto, ancora. E ancora giù chiamata, mandami una questione che sappiamo, no? Sulla scheda me l'ha mandata. Ma è da farato, Ah, da farato, andava. Allora lo fa, se lo fa di meglio. Ti sento, chi sei? Chi sei? Poi arrivi a voi che arrivi, che c'è? Sì, no, tu sì. Va bene, ti a voi. A voglia, benissimo, capito l'uomo. No, è col portatile, forse era perché era col portatile. Però a me arriva, va bene. È solo col gommino, Che pure mi arriva, eventualmente c'è qualcosa ostacolo a te. Sicuramente sì. Visto Giovanni, questi... Questi giocattoli ci permettono di comunicare, anche a distanza. È una cosa buona, là. Cazzo, è una cosa buona. Noi lo stiamo abbandonando, però è un oggetto abbastanza spassibile, capito? Ogni tanto la chiacchierata fa sempre piacere, dai. Per annoiarti, poi fai per altre cose, dici che il tuburu già va bene, lo sai. Certo. Poi non si paga niente, neanche, oltretutto, vabbè, paghi solo la radio, va bene. A me mi sta facendo, sai che cosa? Il volume quando lo tocco, va. Ci vorrà sicuramente un coso per i contatti. Adesso me lo compro, su eBay. Ho capito lui. Ho detto il volume, quando lo muovo, fa, c'è un, però adesso non si sente, è come se è sporco, mi capito. Ho capito, Angio Maria. Eia! Sa, sporco, boh, adesso vediamo, un po' di quel prodotto per i contatti. Perché prima non lo facevo. Oia, vabbè. Ma gli si capisce Eva, Eva è lungo. Ma infatti oggi qualche più vigile, oh, l'ha fatto stamattina però, mattina presto, l'ha fatto un po' che una nuvola è passata, capito? Però mi ha messo a qualche domani e sta arrivando un temporale, via quanto ho capito. Beh, speriamo che non sia domani, a chi domani, mi serve una bella giornata, ma però se piove non ci vado. Ah, beh, certo. Fattore ancora a Olbia. Tu devi andare a Olbia, poi non ne torna tu più. Se non sono in tempo brutto, già si può andare, anche se piove, magari chi non sia forte si può anche andare, però se devi fare qualche cosa a fuori, magari non va bene, però chi ne sa. Boh. Chi ne sa cosa fa domani, cosa non fa. Io mi auguro che domani faccia una bella giornata, perché devo uscire anche io, capito? Per cui speriamo bene, vai, se non so, però l'acqua fa sempre bene, quando fa sempre bene, perché qua non ce n'è acqua qua, poca roba ha fatto quello che ha fatto, però le deve fare qua. Ah, beh, certo. Ma dimmi una cosa, Gio Mario, tu la stufa l'hai già pulita, già pronta ce l'hai? Ho capito, Luca. Ho detto, se la stufa a pelle te l'hai pulita, ce l'hai già pronta. L'ho pulita, l'ho pulita nel mese di maggio, l'ho pulita. E ho chiamato a Pazzimanno, ho chiamato, l'abbiamo pulita insieme, tutta bella, pulita, lucida, lucida. Perfetta, pronto per l'inverno, Lu. Noi dobbiamo pulire questa, adesso vediamo, un giorno. Vediamo, buona domenica, un giorno che non usciamo, ci mettiamo, la puliamo. Meno male il tubo, cioè, è dritto, abbiamo il bastone lungo lungo, con la spazzola. Si mette una busta dentro casa, si spinge tutto l'ambaradam, tutto quello che c'è nei tubi. E poi smontiamo la stufa e la spiriamo dietro tutto quanto e cambiamo tutte le guarnizioni e poi la ripiastiamo. Ci vediamo bene, là. Io appena che ti ho detto, non accendo più, se lo faccio più caldo, per cui l'ho chiamata Luca e l'abbiamo fatto insieme. Ma l'abbiamo pulita tutta completamente, c'era quella ventola rotativa che sembrava una ruota, è tutta rete, capito? Era tutta intasata di la rete, robe varie, ed era pesante, capito? Mentre invece adesso bella pulita, la luce col pannellino l'abbiamo fatto, ne abbiamo capato un po' di purigine, gatta. Adesso già gira senza sforzarla, capito? Bene l'abbiamo fatta, Tutti i tubi abbiamo pulito, tutto quanto, tutta dalla lavetta, e per cui abbiamo fatto il lavoro tranquillo, anche. È pronta per quest'anno. Speriamo che inizi più tardi possibile il freddo. Non bisogna stare sempre al momento, capito? Ecco, per dire, un venerdì e un sabato, ecco, non esco a nessun posto e mi faccio questo lavoro. Uno se la deve fare, per cui ce l'ha già pronta, capito? Senza fretta, senza niente, perché sono cose da fare piano piano, farla bene, dato che la fai, e sei tranquillo, capito? Io faccio tutti gli anni così, l'anno scorso ho pulito quella, anche quella del mio figlio, però quello del mio figlio non, cazzo, mi dava fastidio a smontare tutti i tubi, e mi sono fatto anche male, cazzo, togliendo i tubi. Per cui adesso lo so, quest'anno non so se l'ha pulita lui, se la pulirà anche lui, senz'altro non l'ha pulita ancora, io me la sono pulita e per cui sono tranquillo. Sembra così, ma i tubi vogliono pulire, c'erano per pulire, capito? Per cui l'abbiamo fatti lucidi, lucidi ed è pronta, ecco, tutto lì. E così fai tu, lui. Ti richiedi un paio di sere, te la fai con calma, tranquillo, capito? Certo. Adesso vediamo, ripeto, una domenica magari la facciamo con calma. Sai che ce la stufa piena adesso anche di quelle. Poi c'è un fianchetto mollato da tutto l'anno, quando la accende qua vibra un po'. Una volta che si assesta tutto quanto lo fa molto di meno, però bisogna spingerlo. Adesso vediamo, ora già non è difficile farlo, ma forse tutta. Allora io ne ho tolto anche la mia era piena, però l'ho tolta tutta. Con un bicchiere l'ho tolta e siccome giù ci rimane tutta la polvere della pelle, c'è capito? E la polvere certe volte non parte perché è tutta polvere, capito? Io ho tolta la pelle, e l'ho aspirato con l'aspirapolvere, tutto quanto l'ho fatta lucida, e dopo ce l'ho rimessa di nuovo, ed è fatta di piena, almeno quando l'attacco, è tutta pelle tranquilla, pulita, capito? Senza polvere. Certo, è proprio lucidata, eh. Hai fatto praticamente la manutenzione, lucida. Vabbè, stavolta se vuole pulita, Giovanni. Vuoi pulita, adesso appena decida la signora quando vuole fare, a me anche domani mi segna pulita. Infatti, quando è pulita sei tranquillo che è pulita e si è a posto, capito? Lei lavora bene quando è pulita, invece quando è sporca non lavora tanto bene, capito? Per cui per fare un lavoro in modo che lavori bene deve essere sempre pulita. Io la pulisco un giorno sì, un giorno no, però durante l'inverno io quando l'apro tolgo tutta la cenere che brucia, poi tutte le canalette dove passa tutto il fumo eccetera eccetera, quello lì lo pulisco un giorno sì, un giorno no. C'è una piastra di ghisa grande che copre i tubi che manda le calorie. Quindi tolgo la piastra, c'è una vite, lo pulisco con pannello bene, un giorno sì e un giorno no. Per cui è sempre pulita la mia ed è un bobo, e io ce l'ho da parecchi anni adesso. Sembra che ce l'ha da sì, ho 7 anni, ma sta sempre camminando bene. Capito, non ho mai messo un pezzo nuovo, ma sempre le stesse cose, anche quello che accende, capito? Anche quello, la candela, non l'ho mai cambiata io. Vabbè, è una cosa, la tieni conto, è come la macchina, se la macchina prendi e vai, no? E non fai nessun controllo di olio, di quell'altro, e te ne freghi poi, è normale che ti ha problemi, ma se una cosa la tieni conto, fai le revisioni, cioè i controlli, ecco, le pulizie soprattutto, è normale che ti dura, anche lei soffre, se non lavora bene soffre. È così, capito, perché se no si intasa e non brucia bene, capito, e lavora male, ecco, per cui quando il pulito invece lavora che è un bobo. Non mi ha dato mai fastidio il cammino, mai, per cui sono tranquillo. Ripeto, ho smontato tutti i tubi, li abbiamo tolti a pezzo, li abbiamo bene puliti in terra, e dopo rimpiazzati, per dirci no, è pulita, sembra nuova. Io quando l'accendo sempre dalle 3:30, le 4 fino alle 10, fino alle 10, 10 e un quarto, sempre accesa, tutti i giorni. Giovanni, se una cosa tieni conto, come ti ho detto prima, ti dura. Se te ne freghi è normale, fa fine brutta. Allora, quella di Marina, ne aveva una, se avevi 7 anni, giusto? Ma quella che è venuto. No, Marina, 7 anni. 9 anni, praticamente funzionava bene, Giomari, però l'accensione si vedevano le scintille da dietro, dove tu agganci il tubo, lì. E lei alla fine la voleva buttare, però vabbè, non aspetta, non buttare niente. L'ho messa in vendita e se l'ha presa un tipo dal mio gruppo, è venuta e se l'ha presa. Dice che serviva la suocera. Quella di Marina, quella grossa. Io ce l'ho, è stretta e lunga, ce l'ho, perché ce l'ho sull'andito, capito? È stretta, mi sembra che sia 60 centimetri come larghezza, è lunga, sarà 1,80, capito? 1,80 sarà. E per cui la mia è così, perché c'era sull'andito, se la mia prendevo quella grossa non ci stava, capito? Allora veniva male a passare, capito, sull'andito, perché sull'andito c'ho anche un armadio a segliante, e per cui ho dovuto per forza prendere quella piatta. E beh, è bella la mia, è bellissima, che è un bombon, è bella veramente la mia. Già te la mando a prendere, già te la mando sullo scappo, come è fatta la mia. Quella di Marina è quella normale, Gio Mari, quella alta, stretta lo stesso, in quelle alte, che c'ha l'attacco del tubo sotto però, tipo, non ha la grandezza del bidone, quelli, metti a quei bidoni della moto, quelli così stretti, quelli quadrati, diciamo, così, di quelli così alta più o meno, eh? Ho capito, è superiore come quella di Luca, là, però più alta. Sì. No, la mia è stretta perché, ripeto, non l'ho messa sull'andito, capito? Infatti non ho tolto la porta dell'andito, e l'ho tolto perché sennò mi rimaneva tutta la caloria, perché io ce l'ho incanalata, me l'ho incanalata e cucina pure. Ho fatto buco e ho messo un tubo di quelli di alluminio flessibile, e mentre anche il calore anche in cucina, capito? Poi sull'andito mi fa tutto l'andito, anche le camere mi fa, capito? E ecco perché l'ho presa stretta così, almeno passo pure tranquillo, capito? Beh, se non lo puoi, alla fine non sei spazio. Anche qua non ci possiamo lamentare, la calda, no, poi si è freddo, perché scopre tutto, però dai, va bene, se no qua non ci può rimanere, perché ti congeli, invece bene o male con quella già sempre alla casa, dai, siamo a me capita che con tempo io rimango un po', mi scaldo bene e poi mi metto dentro il letto. E poi non mi riesci più, e se no mi cancareggi torna. Io già me la scalda, ma io l'appartamento mio non è che sia molto grande, mi sembra 90, 97 metri quadri, e per cui la stufa che ho preso va benissimo, capito? Certo, sulla sala non entra, sulla sala, perché io ho due camere grandi, sia la camera da letto mia e la sala, che sono 7x6, ti puoi immaginare, sono molto grande, mentre dove sono adesso qua è una cameretta più piccola e già entra il caldo, capito? Però in sala, ma la sorte non è tanto facile, perché è molto grande, il calore non è niente tanto, e già entra però poca roba, capito? Sì, ma qua ripeto, se non c'è stufa, muori, l'estate ci muore di caldo, qua dove sono adesso, l'inverno è uguale, va bene, interessante che scaldi ormai, poi, adesso appena decide la signora per pulirla, guarda, io soffro il freddo ai piedi, io ho sempre freddo ai piedi, però a cosa l'ho presa io la sopra? L'ho presa per riscaldarmi, così che io l'accendo, fino alle 10:30 è sempre accesa la stufa, dalle 4 è sempre accesa, e per cui non è che la metto a minimo, la metto a 3, ma non so quanto scaldi, certe volte quando passi davanti Canta così non ti riscalda forte, che se non ti reggisci a rimanere davanti proprio. Puoi immaginare. E io ho freddo l'inferno, per cui io accendo. E mia moglie invece che lei in casa non lo soffre il freddo, ha sempre caldo. Però io quando sono freddo me lo accendo, e la griglia, e momenti. Pure la notte, per dire, la notte, io metto la borsa, cioè, metto la borsa qua a casa, perché ho freddo ai piedi, ho freddo ai piedi addosso, no, ma ai piedi ho sempre freddo. Gio Maria. Sì, ecco, si dice che qui io e a te. Gio Maria, che poco fa mi hai caduto la batteria e non ti sentivo più. Direzione Piattamola, come sta andando? Ma va bene, sì, va benissimo. Cazzo, cosa vuoi pretendere? Ti Puglia. Va bene, infatti ho chiamato un paio di volte, boh, Luca non ti sentiva, aspetta che ti mando a Luca per vedere un po' se ti senti. Ah, lo senti Luca? Sì, un po' a tratti, ma lo sento. Tiro, mi senti? Lo senti a Luca, ti? No, sentivo Giovanni, ma Luca? Lui ti sente a tratti, però ti sente. No, negativo, non arrivo. Io adesso sono, diciamo, imbottigliato, in campagnolo, terreno campagnolo, quindi gli alberi mi impediscono. E infatti a momenti manchi, però già ti sento bene, capito? Si capisce abbastanza bene. Luca magari ti sente a tratti, magari, forse c'è qualche ostacolo avanti, così è lui. Ah, non ho capito, Gio Mari. Ho detto che non lo senti perfettamente a tiro. A tratti lo sento, Gio Mari. Ah, ecco, a tratti, no, a me mi arriva benissimo, Perfetto. Vai, ti. Va bene, dai, ti mollo che sono quasi arrivato e faccio un po' di traffico, sono sbattuti addirittura. Sono a campagna, ho uscito a tutti i punti. Accordati, salutori, famiglia, dai. Ci sentiamo, buon presumento, ciao. Via, ciao. Ciao, signor, grazie. È già arrivato in campagna, è arrivato già, per cui deve essere già chiuso lui. Ma ti mandato un messaggio alla pasta di voi, Faro. Oh, non ti ha risposto? Sì, tanto che fa di cosa. E quando mai? Sarà con Big Candy. Ma sei il vuo. Lui. Non ti rispondi, no? Sei impegnato, non ti rispondi, Oh, ehi, ti ribassa pure adesso. Oh, prima o poi. Non ribassa, rimani. No, Gio Mari. E' Ungheria, chiudi che uè. Attento, Luca Maglio. Papia, è stata un pescio. Sempre siamo in campagna, tutto a posto, sì, ordinata, tutta... com'è? Hai fatto tutti i lavori che dovevi fare. Tutto a posto, bella pulita, abbiamo fatto un bel lavoro, lui. Sì. Per lui fa tutta guata. Sta muffito, la base ce la mangi tutta la peppe, ce la mangi di questo. Mi finirà un bel guascia, già l'ha giù fatto un bel. Pure il comandante l'ha giù fatto una cascetta, si può immaginare. Però va, chissà che fa, un po' tutta guascia, gatto, boh. A chi ne poteva fare la prima, io la giù della curata, così che c'è qua tutta canta. Ma Uvadozzi, E allora, non va in ossidio, villaggio, e va a tavola ce ho io, capito? Ma l'ha già fatto un bambino, che ma ne fatti miei figuri, pure, perché li immagina, l'ha già fatto un bambino, però chissà che vea, vai, quasi sta quasi, per cui non lo... Cacchia, lui ci sa fare ugualmente, però... Lungo andare, dice, gli me la mangio, ma te si andò a fare la giossa. E vino non le fai? Oh, io, guarda, vino, ma non è una vigna questa, sono delle piante che ho messo proprio per tavola, capito? La faccio bene a canno, però se non la medichi, se non la medicata, non dura, si guasta, capito? So che da 3 o 4 anni non mi medichi niente, prima la medicavo, adesso no. perché una volta la medicina mi hanno fatto male, dalla volta non ne ho medicato più, come ti biate candida, capito? Se ci vuole una biglia, se no ma si vecchia. Ah beh certo. E anche a padre di Marina un po' già di uscita, là. Non si fa il vino. Ok, io magari prima non ce la facevo a mangiarmela tutta, no? Non so, ce li davo anche tutti ai miei figli, eccetera. E veniva anche mio nipote, e siccome il mio nipote la compra l'uva per farsi il vino, lui in campagna. Allora lo facevo venire anche da me, e facevo quella che avevo io e la mettevo in mezzo. Ma ne facevo parecchio prima, io. Ne facevo parecchio, però io non vedo cosa. No. Prima di tutto ci vuole l'attrezzo giusto per fare il vino, poi non ne fosse. Tanto io non è che bevo, capito? Io massimo che posso bere mezzo bicchiere, non di più. Non sono un bevitore io, capito? Ma nemmeno io, un bicchiere ce lo beviamo ogni tanto, ma manco io sono un bevitore, Giovanni. Bah, per carità. No, vabbè, il padre di Marina si fa la scorta, lui se lo beve, mangiando, ovvio, Se lo beve tranquillamente, almeno non sa quello che beve, ecco, non sa, cioè non prende roba da altre parti, se lo fa lui e sa che è roba sana. Infatti, no, mio genero glielo fa tutti gli anni, per cui qualche bicchiere già lo bevo, quando siamo in compagnia però, capito, ma in casa io non ne bevo, nemmeno birra, raramente bevo anche la birra, io mi bevo aranciata magari, quella senza zucchero, capito? Quella già la bevo, ma vino non ho. Qualche bicchiere così e basta. Sì, qualche bicchiere magari mangiando in compagnia, se no noi non ho. In casa non ne beviamo. No. Sono il mio, sono 20 anni che io non bevo come. Magari prima sì, prima bevevo, specialmente quando avevo la cabina a Sesto Pettine, certo. Da novennare mi si parlava Ivi, veniva in luce miei figliori, miei genere, così che era sempre dentro la lera Ivi, allora già ne beviva più tazza in più. Vabbè, dai, già. Tipo ieri abbiamo mangiato la pizza e qualche bottiglia di birra ce la siamo bevuta, capito? Ma niente di. No, acribatti, Noi abbiamo un limite, poi boom, finito, basta. Quando magari siamo in compagnia, infatti l'altra volta eravamo in compagnia della mia figlia ottava e hanno fatto una cena, un paio di bicchieri l'ho bevuto, però quella gazzosa, quella gazzosa, più gazzosa che vino, come già, non mi va, capito, assolutamente. Secondo cosa mangi, magari un mezzo bicchiere di vino gli va bene, ma se no non. Nemmeno birra, nemmeno birra. Acqua. Io bevo acqua. Smeraldina. Io bevo sempre acqua di smeraldina, E ogni tanto ho qualche tipo di acqua per mischiarla, capito? Adesso che io lo bevo, se ho Pasqualino caffè lo bevo con l'acqua. No, se lo bevo normale io, cioè senza mettere niente. Quella gazzosa Vasimari, Giovanni, da gabba, Ludozzi, da voi. No, normale, un mezzo bicchiere, a seconda di quello che mangio, ma non più di un bicchiere. Eia. Ma no, di Marino sei 27. Di ex sto facendo. Ah, chi Marino c'è, Gio Marino? Eia, ma c'è uno là fuori che è più basso. Io ce l'ho spento il paracchino. Eia. Va bene, là, ci sentiamo magari dopo, se coincide, là, se no ci sentiamo domani. Saluto di casa, buon proseguimento di serata, grazie alla chiacchierata, ogni tanto fa sempre piacere, dai. Ehi, ciao Gio Maria, dai, mi ha anticipato, adesso vado una sciacquata e poi a preparare la scena. A domani se coincide, dai, ciao Gio Maria. Ok, ciao.